anche se il calcio è per certi versi assolutamente un mondo a sé, ritengo estremamente improbabile che ci possano essere distinzioni tra l'associazione di base del mondo del calcio e l'associazione di base del mondo del triathlon, del baseball. Lo dico con franchezza. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dear fellow athletes, we all will be able to celebrate the Olympic Games Tokyo 2020, even if it's only in 21. But finally, you can be sure that you can make your Olympic dream coming true. Cazzo, devo nuotare un altro anno. Non ci voglio credere. È una notizia che mi taglia le gambe. L'anno prossimo sarà ancora più complicato, però non credere che non stia già pensando a come farlo. Mi piacerebbe fare quest'ultima Olimpiade, però ecco, un anno è lunga, eh. Davanti a tutti questi punti di domanda mi sono tolto un peso a sapere che le Olimpiadi saranno il prossimo anno, che ci sarà il tempo di riprogrammare, di avvicinarci a quelle Olimpiadi proprio come vogliamo, ecco. These Olympic Games could then finally be true demonstration of the Olympic spirit. Keep going and stay united in the Olympic spirit. Buongiorno a tutti. Dunque, a chiudere la settimana in cui sono state rinviate le Olimpiadi, abbiamo sentito qualche parola di Federica Pellegrini, ex Zanardi, Elisa Di Francesca, Lia Viviani, il nostro ospite insieme a Zanardi nel corso della settimana. Ho convocato gli stati maggiori dello sport di Radio 24, per cui saluto ovviamente Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano e Dario Ricci. Saluto cumulativo a tutti e tre per fare gli onori di casa al numero uno dello sport italiano. Presidente del CONI Giovanni Malagò, buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti, saluti agli amici che ci ascoltano e ovviamente ai tre ragazzacci che hai presentato. Grazie per essere qui con noi. Parto io con le danze, anche perché è un commento sulla notizia di oggi, cioè la FIRA, Federazione Italiana Rugby, ha rotto il fronte e chiuso ufficialmente la stagione senza assegnazione dei titoli, senza promozione e retrocessioni. Dunque semplicemente una barra nera anche a futura memoria su quello che è successo quest'anno e che non succederà più quest'anno, Presidente. Potrebbero essere solo i primi e forse non gli unici. Sì, allora innanzitutto fatemi fare i complimenti perché siete stati molto sul pezzo questa settimana. È vero che le Olimpiadi hanno conquistato, forse insieme al coronavirus o per colpa del coronavirus, gli onori delle cronache, ovviamente con tutta la complessità, però siete stati bravi anche gli atleti che avete ospitato, sentire le loro reazioni, secondo me buona informazione anche e soprattutto fuori dalla specificità del mondo del calcio. Grazie. Sì, la Federazione Rugby ha convocato un consiglio federale, ciò che è un argomento che è stato trattato perché non è una cosa proprio banale. Conosco le dinamiche del ragionamento e ricordo a chi ci ascolta che spetta alle federazioni l'organizzazione dei campionati, in alcuni casi a loro volta le delegano alle leghe, come esempio è il caso del calcio, come è il caso della pallacanestro, è il caso delle pallavolo, però diciamo il primo diritto, il boccino in mano di partenza ce l'hanno loro. È una scelta opinabile o meno, discutibile, però è chiaro che non hanno voluto neanche aspettare una data che magari veniva condivisa, al di là che poi gli interessi sono molto diversi, perché sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando, non si può accomunare tutto e tutti, però è chiaro che se è vero che le federazioni hanno l'onere e l'onore di organizzare i campionati o direttamente o tramite le leghe, è anche vero che viviamo in uno stato in cui ovviamente ci sono delle leggi da rispettare, in questo caso delle ordinanze, per cui uno può decidere di organizzare un torneo, una competizione, una manifestazione, però se non puoi uscire di casa, se non ti puoi andare a allenare, se non puoi vedere la partita o quantomeno diciamo dare garanzie su tutti quei requisiti di sicurezza massimi, di che parliamo? Beh, ragazzaggi, dopo esserci beccati i complimenti del presidente del CONI, a voi le domande. Pardo, cominci tu. Sì, presidente, dacci la speranza. Scusa, non è una domanda, è una una preghiera. Una preghiera. No, nel senso, insomma, nelle segrete stanze del CONI, ovviamente immagino che in questo momento soltanto gli scienziati abbiano, forse nemmeno loro, un'idea di quella che potrà essere l'evoluzione. Vediamo anche i capi di Stato, insomma, che brancolano nel buio. Ma ci racconti un po' il lavoro di queste settimane, perché immagino sia un lavoro scandito da, appunto, da una serie di informazioni assolutamente frammentarie e da qualcosa che è veramente senza precedenti. Cioè l'incertezza di questo momento forse non ha uguali, forse nemmeno nei conflitti bellici, sì, fortunatamente noi non l'abbiamo, la nostra generazione non ne ha vissuti, ma forse soltanto in quella situazione lì ci potrebbe essere un'incertezza simile. Guarda. Questi paragoni sono sempre diciamo complicati, insomma, come paragonare problemi o anche giocatori, come ogni tanto si fa, di epoche molto lontane rispetto a quello che sono situazioni di adesso. Non lo so, ma insomma sono due cose completamente diverse. Lì si sapeva chi era il nemico, qui il nemico teoricamente, paradossalmente, lo puoi avere anche in casa, adesso lo dico nel senso paradossale, se la persona magari non te lo aspetti, magari a sua volta ti coinvolge nel virus e a sua volta ti in buona fede magari fai delle cose che non hai dovuto fare. Ma comunque parliamo di sport e parliamo di questo caso. Come? Pronto? Prego, la stiamo ascoltando. No. Allora, il tema qual è? Che ci sono due scenari, almeno io li sto vivendo così, ma poi ho un ruolo in Italia e un ruolo all'estero. Il ruolo in Italia è chiaro che qui noi ci, tra virgolette, ci gestiamo, uso il plurale maestatis, autonomamente tutto questo. Lo fa il governo, lo fanno le federazioni, lo fa il Comitato Olimpico a seconda delle problematiche. Poi c'è un problema che invece riguarda fuori dai confini, che quotidianamente vivo. Stamattina io ho avuto una chat che è durata esattamente 3 ore e un quarto con un gigantesco, lo sottolineo 100 volte, un gigantesco Thomas Bach, che per 40 minuti ha fatto un report assolutamente analitico da quando è cominciato questo casino spaventoso del coronavirus fino a quando si è presa la decisione di postpone i giochi olimpici. Peraltro la cui data sembrerebbe che da qui a 3 settimane sarà ufficializzata sulla base di altri ragionamenti che si stanno portando avanti con le federazioni internazionali. A me mi ha fatto un po' sorridere che nei giorni antecedenti, che poi non sono stati così tanti, tante persone, anche legittimamente, anche persone competenti, suggerissero cosa fare e cosa non fare. Questo fa parte della vita. Il problema è che tu ti devi ritrovare. Lui ha raccontato oggi esattamente il livello delle problematiche, ma soprattutto di interlocuzione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che di fatto è quella che oggi comanda. Mettetevelo in testa. Cioè, nessuno può prescindere. La nostra Organizzazione Mondiale della Sanità, a parte che c'ha una fila in Italia, c'ha la sua interlocuzione, c'ha i suoi rappresentanti, è la comunità scientifica. Se la comunità scientifica ti dice, bene, da questo momento si può ricominciare a fare 2 punti, cosa? Si può liberare il lavoro rispetto allo smart working, certe fabbriche possono aprire, un minimo di servizi aggiuntivi e automaticamente c'è anche una dinamica che rivolge lo sport rispetto a quello che è oggi, che non è solo fare la corsetta di 100 metri, ma addirittura prevedere contatti tra i giocatori o situazioni del genere, a quel punto uno è in grado di dire, bene, ecco come ha detto il mio amico Pardo, dacci una speranza, ma se non c'è quella non va incluso nessuno, non va preso in giro nessuno, mi sembra molto scontato. Sì, Giovanni. Allora, a me è parso di cogliere un po' di dispiacere nel presidente quando prima ha commentato la decisione della Federrugby. Volevo chiedergli se è fatta salva le autonomie delle federazioni e lui l'ha ribadito in maniera corretta all'inizio, non sarebbe più giusto, più bello uno scenario in cui ci si muove insieme pur nelle diversità e non andando in ordine sparso. E poi, facendo corso a quello che ha appena detto, mi chiedo se allora lui si schiera dalla parte di chi ritiene che ad esempio il calcio debba in questo momento pensare a come ripartire, se sarà possibile piuttosto che chiudere in anticipo tutto? Domandina insomma non banale, ma insomma il mio ragionamento è questo. No, io non sono contrario a quello che ha fatto la Ferrari, te lo giuro, non lo sono affatto. Magari non condivido il timing, questo sì. Cioè sarebbe stato magari più bello, visto e considerato che siamo a fine marzo, c'è una prima ordinanza che scade il 3 di aprile, peraltro ieri il ministro è stato molto eloquente, ha detto io la vedo dura, che il 3 maggio, che era un'ipotetica data in cui si potevano ricominciare le competizioni, in particolare ovviamente l'attenzione è molto focus sul calcio. Cioè secondo me si arriverà a quello che ha detto il rugby, questa è la mia opinione. Probabilmente in altri sport, non so se in tutti, perché alcuni sport sono in condizioni diciamo di stiracchiare, di elasticizzare, di allungare la stagione, al di là dei contratti, al di là della questione dei tesseramenti. Parlavo con il presidente del baseball, del softball, cioè loro sono abituati a giocare più avanti nella stagione, per cui paradossalmente se ci fossero le condizioni forse troverebbero la quadra. È chiaro che nel caso magari di quegli sport professionistici o no, in questa stagione sportiva si chiude il 30 di giugno, in cui c'è un impiego anche spesso di giocatori che sono in prestito, in cui ci sono delle dinamiche contrattuali, ci sono addirittura delle coppe europee da svolgere, ogni cosa la devi guardare nella sua specificità, non puoi generalizzare tutto. Secondo me non è neanche un esercizio serio. Dario Ricci. Presidente, guardando un po' avanti, il dossier olimpico di Milano-Cortina 2026 è già stato intaccato da questa crisi, è preoccupato, immagino e speriamo davvero, non per lo svolgimento ma per l'inevitabile ritardo che ci sarà, e poi insomma Lombardia e Veneto, le regioni più colpite, hanno questa prospettiva a cinque cerchi. Sì, questo è nel bene o nel male, a seconda di come uno vede il bicchiere, è un beffardo oppure meraviglioso segno del destino. Beffardo, se pensi appunto a quello che tu hai detto, però io mi sento di dirti che sento spesso Novari che sta sul pezzo, che ovviamente lavora da casa, ma già c'è una squadra molto molto operativa, estremamente qualificata, l'organigramma sta andando avanti. È chiaro che noi adesso dobbiamo interloquire con l'agenzia è pubblica, mentre il comitato organizzatore è privato, però non mi sento di dire che questo implichi per ciò che riguarda l'organizzazione dei giochi. Magari la mia riflessione può andare non tanto agli impianti sportivi, uno dei motivi per cui noi abbiamo vinto è che quasi il 90% delle strutture già erano realizzate, e meno male che è stato così, perché sennò pensa che il problema che sarebbe stato aggiuntivo, per cui noi abbiamo tutto in casa, andiamo a Bolzano per fare il biathlon, andiamo in Val di Fiemme per fare il fondo, andiamo a Bormio per la libera maschile, insomma sappiamo benissimo dove cosa fare, ma magari qualche opera che non era prevista al dossier ma che sarebbe stato bello fare, perché deve diciamo dare i migliori servizi aggiuntivi, per conto qualche nuova strada, qualche complanare, qualche bretella, qualche situazione, io non lo so, ma più che altro perché questo dipende dallo Stato, dal CIP, della programmazione, se magari adesso destinerà dei fondi a qualche cosa di proprietario. Io parlo solo esclusivamente del mondo dello sport. E l'altra questione che voglio dire invece è il lato positivo, questo magari poteva sembrare quello beffardo e stiamo perdendo del tempo. E quello positivo, voi pensate, voi la trasmissione la fate da Milano immagino, no? Sì, esattamente. Okay. Ma voi pensate, no? Cosa è successo? Roma si candida, Roma parte, ha tutti i requisiti per andare a Dama, per un caso diciamo della vita particolare il sindaco si dimette o lo fanno dimettere, insomma non sta a me dirlo, arriva una nuova elezione, arriva un nuovo sindaco, a corsa lanciatissima fermano questa corsa, a questo punto parte una situazione Piemonte-Torino 2006, Milano-Lombardia, poi sapete quello che succede con Torino, con il Piemonte, all'ultimo secondo si aggancia il Veneto con Cortina, tiriamo fuori veramente a quasi a candidatura scaduta questo Jolly dal mazzo. Noi, scusate se ve lo dico, 9 mesi fa, il 24 di giugno, con Milano-Cortina vinciamo per una corta incollatura contro la Svezia che sarà candidata 8 volte, perdendo 8 volte, attenzione, voi pensate se noi non trovavamo quella finestra in quel momento, quel 24 giugno, pensate oggi, cioè noi ci saremmo non dovuti ritirare, cioè già sarebbe stato un argomento passato in cavalleria. Grande creatività italiana, mi permetta. No, è la vita, è così ragazzi, è la vita. Senta, ma è praticabile. Rider? Ma sento ovviamente, come voi sapete, 5-6 volte al giorno Franco Chimenti. Franco Chimenti, devo dire tra i primi, ha detto: guarda Giovanni, già c'è un precedente che hanno spostato la Rider di un anno, ma in realtà, state ben attenti, non è un problema della Rider romana italiana, è che se dovessero spostare la Rider americana, automaticamente, hai capito? Questo è il ragionamento. E quindi mi sento di dire che siamo figli di quella decisione, che poi la stessa identica cosa, tutte le federazioni mondiali, ad eccezione del calcio, e anche qui, voi che siete dei super esperti, poi sono cose che a me mi appassionano, guarda che razza di combinazione incredibile che è uscita fuori, cioè praticamente c'era la possibilità in pura teoria di andare a giocare, scusate, di andare a svolgere le Olimpiadi anziché nel 21 e nel 22, qualcuno l'aveva ipotizzata, diciamo per stare più tranquilli, ma in realtà tutto questo era fattibile solo ed esclusivamente perché siamo andati a organizzare un mondiale, mi fate dire altro, in Qatar alla fine del 22, perché sennò tutto questo non sarebbe stato fatto possibile. No, no, ma, dico, no, ma la vita è questa, ragazzi. Senta, ma è praticabile lo scenario di una estate che è stata lasciata libera da Europee e Olimpiadi, riempita per intero dalla stagione dei club? Non lo so, perché questa è una cosa che dipende, non lo so, dall'UEFA, non lo so, in parte della FIFA con quel mondiale che vogliono mettere in piedi. No, questo non lo so dire. Guardate, non perché, insomma, io faccio parte del CIO, ma Bach è veramente stato un gigante in questi giorni. E lui l'altro giorno ha detto una cosa chiarissima, se lo devono mettere in testa tutti, nessuno escluso. Ovviamente io parlo anche sia a livello di cittadino, sia a livello di imprenditore, sia a livello di presidente del Comitato Olimpico. Dice, da adesso tutti quanti devono fare sacrifici e compromessi. E magari la parola sacrifici nessuno era, si aspettava di farlo. Compromessi, diciamo che è qualcosa che forse ci fa schifo solo a pensarlo. E però bisogna entrare in quest'ordine di idee, ragazzi. È perché se tutti continuano a rimanere, diciamo, arroccati a un proprio orticello, è chiaro che la soluzione non la trovi, le cose poi si complicano, perché bisogna andare il più possibile in condivisione dei problemi. Quindi se posso inserirmi, certo. Allora serve anche un gesto forte a livello simbolico, ad esempio a proposito di sacrifici e compromessi, che coinvolga tutti, perché poi capiremo anche da chi si aspetta al CONI un aiuto concreto per lo sport italiano, che non è solo quello di vertice. Però ad esempio oggi tanta gente legge i giornali e fa fatica a capire la battaglia del grano, dei calciatori, quelli con gli stipendi milionari. Forse servirebbe un gesto anche simbolico forte di accettazione di un sacrificio. Anche qui io da tanto tempo sto attento a non parlare per categorie che non ho, diciamo, deleghe di rappresentanza. Io penso che ci si arriverà, magari mentre noi stiamo facendo questa trasmissione radiofonica, i vertici dell'associazione stanno definendo gli accordi, perché magari levare, non lo so, il 30% a un calciatore che guadagna, non so, 10 milioni di euro netti è un conto, e magari ne ha già guadagnati non so quanti. Magari levare il 30% a chi è un giocatore di serie di pro, perché vi ricordo che sono professionisti, o di serie B, che magari nel frattempo anche lui ci ha aperto un mutuo, il contratto in scadenza a una certa età, una situazione un po' diversa. Io credo che sia anche qui giusto che magari si debbano prendere in considerazione, come d'altronde succederà negli sport, che diciamo, chi ha maggiori possibilità cerchi di aiutare. Questo adesso sta succedendo, se ci fate caso, in certi paesi, in certe federazioni, in certi sport, diciamo, quelli chiamiamolo più ricchi, però che spesso da noi quelli considerati più ricchi sono quelli che hanno i fatturati maggiori, però forse sono pure quelli che hanno maggiori debiti, per cui il discorso è un po' diverso. Sì. Però insomma, sulla carta quelli devono, oggi, questo vale per ognuno di noi, qualunque persona, cittadino, ha una scala oggi di valori di patrimonio, è chiaro che c'ha un amico, qualcheduno, che ha un maggior problema rispetto magari a quello tuo, per ovvi motivi, e io credo che oggi debba scattare questa dinamica di ragionamento. ritorniamo al discorso, se una notizia rocca nell'orticello è un bel casino. Sì, certamente. Dario Ricci, tu hai partecipato in settimana, l'altro giorno, alla videoconferenza di Bach, no? Presidente del CIO. Credo, Dario, che anche il tuo pensiero sia andato, quando si parlava di un'Olimpiade possibile al 2022, a grandi atleti del nostro tempo, da Federica Pellegrini a Elisa Di Francesca a Alex Zanardi, eccetera, che insomma, per i quali questa Olimpiade era la bandierina, l'ultima bandierina di una carriera meravigliosa. Eh sì, assolutamente, no? Li abbiamo sentiti le loro voci. Presidente, riusciamo a tirare la volata a qualcuno di questi campioni? Chi pensa che ci sarà fra un anno? Guarda, Dario, probabilmente mi sbaglio su qualcosa, forse ci sarà un'eccezione che conferma la regola. Io dico che a bordo rimangono tutti. Federica, zero problemi, Alex Zanardi, zero problemi. Sicuramente Aldo Montano, che va per i 42, che ha insomma, i suoi acciacchi, le cose, qualche dubbio se lo pone, però io penso che alla fine Elisa Di Francesca, ci ho parlato diverse volte, ma io sono molto ottimista, sinceramente. Sì, anche perché li ha sentiti tutti, io lo so. Sì, sì, sì, sì. No, questo sicuro. Tempo zero. No, questo sicuro. Dimmi, Gio. Giovanni, quante batterie di telefonino fa fuori al giorno? 3-4. Ci racconta 3-4. Delle chat. Sì, no, ma adesso posso dire una cosa, mi vergogno a dirlo, ma le prime volte io non sono proprio un chattomane, tutt'altro, ma uno deve fare necessità e virtù. Poi stai da solo, senza segretare le cose, per cui devi su ogni cosa ti devi organizzare. Che è successo? Le prime chat sono state un disastro. Vi spiego perché. Perché io mi facevo chiamare sul mio numero. E che succede? Però se tu stai sul tuo numero, nel frattempo ogni 3 secondi ti arriva una telefonata sotto, e ti arriva una telefonata sotto, no, e io questo onestamente non lo sapevo neanche, in buona fede. Mi sono dovuto organizzare delle cose, no, ma lo dico con franchezza, e infatti qualcheduno che poi è confidenza mi mandava a sua volta un messaggio per WhatsApp e mi scriveva: ma non riesci a staccare che ti chiamano tutti? Come faccio? Adesso uno insomma ha trovato un altro numero, ma va bene, la vita dai ragazzi, grande esperto. Fate un grande esperto in materia. Ci proviamo, che dobbiamo fare? Non c'è molto altro da fare in questo momento. Io credo che in assoluto, senza entrare in campi che appartengono ovviamente a altre deleghe e altri dirigenti, io credo che per quanto riguarda la quadra che si deve trovare nello sport professionistico, insomma, alla fine dovrà inevitabilmente prevalere il buonsenso, perché la situazione è talmente di emergenza, anche da un punto di vista legale. Io credo che proprio tutto il tema della famosa forza maggiore, causa maggiore, è talmente forte, al tempo stesso è può essere ovviamente discusso e discutibile agli avvocati, che alla fine la cosa più logica sarà trovare sia sulle tempistiche dei contratti, qualora si dovesse andare oltre appunto il 30 giugno, sia sul quantum una soluzione di buon senso. Insomma, poi questi sono atleti che dovranno inevitabilmente continuare con le loro società, quindi dovranno trovare una quadra anche per i contratti futuri. È una crisi di tutto il sistema, cioè non è che dici litigo col mio club italiano, ho il Barcellona pronto. Bravo. Perché il Barcellona da tempo fa soldi. Barcellona esattamente, dico Barcellona per dire qualsiasi club, cioè siamo tutti nella stessa situazione, è una crisi di sistema. E io sono convinto che alla fine un equilibrio si troverà, magari ovviamente su aspetti finanziari un pochino più bassi, soprattutto all'inizio. No, ma hai detto una cosa che condivido. Io qualche giorno fa, un tuo collega, parlando di più di meno, dice: non ha paura che il nostro campionato, che già aveva qualche elemento di criticità, possa ulteriormente perdere, diciamo, di valore nella graduatoria, nella classifica? Io gli ho detto: no, assolutamente no, anzi, potrebbe essere paradossalmente che ne acquista. E vi spiego perché. Gli ho detto: innanzitutto, perché se è vero che a fronte del fatto di questa clamorosa situazione che purtroppo stiamo vivendo, uno non chiede dei soldi, perché onestamente non è che chiede allo Stato, scusate, di dare, diciamo, un'integrazione agli stipendi dei calciatori Serie A, perché insomma succede vita di Dio, ti devi occupare di altri soggetti. Allora qual è il punto? Tu puoi chiedere qualcosa di diverso. Adesso già c'è, diciamo, questa richiesta di riaprire alle dinamiche del betting, che prima solamente penalizzavano il sistema del calcio. C'è un discorso magari di facilitare o rivedere tutti quegli elementi che sicuramente non sono stati particolarmente facilitatore della realizzazione dei nuovi stadi, c'è un discorso di sgravi fiscali, c'è un discorso magari di ritenute da conto su valorizzazione dei vivai, settori giovanili, eccetera. Per cui da queste cose può nascere probabilmente un elemento di valore aggiuntivo che prima non c'era. E poi, dopodiché, se tu c'hai, senza che faccia un nome o un cognome, Mario Rossi, e tu dici oggi rischio di perderlo, ma dove va Mario Rossi? Cioè, scusate se lo dico, ma dove va Mario Rossi? Se c'è qualcuno che a Mario Rossi va questo, posso dire una cosa, voglio vederlo, perché non credo che quel signore di quella società, ma anzi, siccome prima noi, rispetto in particolare alcuni club, sicuramente spagnoli, quasi tutti quelli inglesi, noi eravamo meno competitivi, forse oggi abbiamo una possibilità di livellarci. È chiaro che dobbiamo essere pronti alla ripartenza e non rifare degli errori che, scusate, in passato sono stati fatti. Senta, Presidente, io le chiedo un'ultima cosa, perché è una questione che mi manda ai pazzi. Sì. Potrà sembrare piccola piccola, però la storia del Monza Volley, che prosegue i suoi allenamenti dicendo ai giocatori il palasport è nostro, sanificato, eccetera. Se avete un contratto e non volete allenarvi, lo rescindiamo, cosa che ha fatto Senen Ortolani, che un po' di oro alla patria ha portato. Ebbene, mi sembra una situazione veramente surreale. Ma poi io conosco bene la Presidente, sinceramente, che è una che ha fatto qualcosa di clamoroso per la pallavolo, perché tu sai che è l'unica società, l'altro anno ha vinto una Coppa Europea e c'è un club maschile che sta nel massimo campionato. E peraltro è un medico anche qualificato, diciamo, di primo intervento, di pronto soccorso. Ma io credo non c'è qualcosa sotto che non, sinceramente conosco la storia, ma c'è qualcosa che non mi quadra, devo dirti la verità. Ecco, detto questo, serena ma grande, questo è poco ma sicuro. Bene, grazie Presidente. Grazie a voi, grazie di tutto, complimenti. Un abbraccio a tutti. Complimenti a lei. Diciamo da lontano, virtuale, ma un abbraccio sportivo. Certamente, che ricambiamo. Grazie. Io saluto anche Dario Ricci. Grazie Dario. Ciao, ciao, uomo olimpico. Ciao, con Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano invece vi do appuntamento dopo la borsa, quando affronteremo un tema che è anche collegato a quelli che abbiamo, insomma, di cui abbiamo discusso ora col presidente Malagò, perché è in arrivo la battaglia del telecomando. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Mi ha chiamato il mio veterinario, mi ha detto: abbiamo trovato un cane qui in mezzo alla strada, non se lo prende nessuno perché è mezzo storto. E ho detto: lo prendo io, guarda. Poi Givale ha vinto il mondiale, 8 ha vinto, e lei mi ha chiamato. E io sto aspettando ancora di chiamare un cane 10, però, per cui, insomma, dai, ci provo. Quindi allora devo fare un bambino e vincere il decimo mondiale. Oggi pomeriggio alle ore 18 italiane io e Alessandro Del Piero faremo una diretta su Instagram e vi aspettiamo in tanti. Direi di dare il benvenuto alla nostra prima ospite, è un'atleta mondiale, una campionessa amata in tutto il mondo, è qui con noi Federica Pellegrini. Sì! Aspetta, devi mettere l'audio. Sì? Ecco, io adesso ti sento. Anch'io, ciao! Allora, dato che è giusto dare a Cesare, che di Cesare, anche a Giovanni Capuano quello che è il suo, ho avuto una grande idea stamattina quando mi ha detto: ma perché non parliamo del nuovo fronte della TV? Adesso tutto si sposta sui social, c'è una nuova stagione per le TV private e ci prepariamo alla battaglia del telecomando, Giovanni? Sì, ci prepariamo e ne abbiamo già colti i primi segnali. Oggi c'è il Corriere dello Sport che racconta della non pay TV, che cosa può succedere nello scenario in cui i grandi colossi broadcaster dovessero decidere di congelare i pagamenti alla Serie A. Ieri ho raccolto insomma questa certezza da parte dei presidenti che in realtà tutto è blindato da un contratto. Io però ho l'impressione che sia tutto scritto sulla sabbia in questo momento, e questo è uno dei grandi temi. E poi c'è l'altro, cioè di come trascorriamo noi senza le partite in casa le nostre ore. E io devo dire che il mezzo televisivo secondo me ha dato il meglio di sé, nel senso che è stato capace di rigenerarsi pur in un momento di crisi, perché è chiaro che se non hai l'evento da trasmettere in diretta di che cosa parli e che cosa fai vedere. E invece la realtà è che ci sono cose da guardare, da ascoltare, da seguire, che probabilmente non sospettavamo potessero avere quel ruolo anche sociale. Credo sarete curiosi anche voi, ragazzi, Giovanni e Pierluigi, di sentire cosa ne pensa Antonio Di Pollina. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, ne penso che bisogna fare una premessa, che bisogna fare un monumento a tutti quelli che si stanno impegnando e stanno facendo queste cose per bene, ma che io prenderei tutto l'intero pacco di quello che si sta producendo e non lo cambierei con l'intervallo di una partita vera, così. Quindi dobbiamo partire assolutamente da questo presupposto, cioè ne avremmo fatto volentieri a meno. L'altra cosa è che i giudizi su chi fa bene, chi fa male, cosa bisogna fare con i diritti e tutto quanto, sono sospesi dal fatto che per fortuna, ripeto, per fortuna non abbiamo precedenti su cui regolarci di qualcosa anche di lontanamente simile a quello che sta succedendo. E quindi come tutti, come in ogni posto, e spero un po' meno nella sanità e così via, si improvvisa, ci si fanno venire delle idee, si va avanti giorno per giorno e si prego, chi ci crede si prega, chi non ci crede spera e così via. Pierluigi, come dicevi d'altra parte ieri tutti baratterremmo il secondo tempo di una partita di mezza Serie B in leggera differita con qualunque altra situazione, però, non c'è dubbio. Però è in dubbio il fatto che non so se stia nascendo gioco forza un nuovo modo di fare televisione, però qualcosa di diverso c'è. Ma sì, allora io ti posso parlare del mio caso, che Tiki Casa, insomma, è nata essenzialmente perché alla quarta storia Instagram, alla quarta persona diversa, anzi questa è la quarantesima, che mi diceva perché lunedì non fai Tiki Taka su Instagram, ho cominciato a farlo e ti dico, poi alla fine sono contento di come ho passato il tempo. Dura più del programma normale, ci sono dei personaggi che forse nel programma normale non verrebbero neanche, per discorsi anche di ovviamente di esclusive con altre televisioni, da Mentana a Zoro, a Cambiasso l'altro giorno, a Marchisio, che però non si vedeva perché sembrava stesse in una cantina, poi mi ha mandato un video. Cioè in questo momento c'è una disponibilità da parte dei personaggi, di tutti i personaggi, completamente diversa. C'è anche una noia, lo dico sinceramente, c'è anche una preoccupazione, c'è anche l'idea che puoi fare delle cose per veicolare delle iniziative certamente positive. Quindi è un momento da questo punto di vista diverso e che può portare anche a dei contenuti certamente interessanti. Questo per quanto riguarda il mondo social. Per quanto riguarda invece la televisione, sicuramente quello che ha fatto Sky è stato interessante, questo caso a Sky Sport, il fatto di l'orgoglio italiano, quello che ha fatto Rai Sport l'altra sera, ha cominciato questo ciclo di partite del passato. Poi è vero quello che dice Antonio, cioè veramente io in questo momento per una partita di metà classifica di Serie B potrei pagare, potrei pagare una pay in questo momento per vedermi una partita inutile di metà classifica di Serie B inglese, probabilmente. Quindi questa è la verità, però ci sono delle cose interessanti. E l'ultima annotazione la voglio fare sulla televisione invece, diciamo, generalista: questi talk show, anche quelli sul coronavirus senza pubblico, è una cosa che diceva proprio Mentana l'altra sera in diretta Instagram a Tiki Casa, chiamiamola così, sono molto interessanti. Devo dire che non c'è più il pubblico, non c'è più l'applauso ossessivo, c'è quindi forse anche la parte degli stessi protagonisti meno la ricerca dello slogan e più del ragionamento, e devo dire che non mi dispiaccio, cioè sinceramente mi sembra, banalizzando il discorso, che gli orpelli o certi orpelli stiano lasciando un pochino più spazio alla sostanza. Ripeto, è un momento particolare, non è che la vita, ci auguriamo al più presto, continuerà così e quindi poi torneremo, non è che uno sta a casa e non va a cena con gli amici fra sei mesi per vedersi la diretta Instagram di Jovanotti, sì, o di Cattelan o Tiki Casa. È ovvio che è un momento particolare, però mi sembra che comunque è un momento interessante, almeno dal punto di vista delle suggestioni e delle ispirazioni che possano venire. Ad ogni livello, Pierluigi, perché Giovanni, anche insomma, i vari programmi di talk calcistico che si vedono in giro sono seguiti come non mai. Sì, ma non solo, ma c'è anche l'altro livello, quello locale. Ci sono TV, qui, insomma, ognuno ha la sua di riferimento, che vanno in onda e sono TV in cui magari vedevamo i famosi dibattiti tra giornalisti tifosi legati al calcio. Tu pensi, finisce l'evento, si fermano. Invece si sono trasformati in una sorta di bar aperto. Che copre un po' tutto, arrivano centinaia di chiamate, di telefonate, di messaggi, e poi si parla di calcio, si parla di altro, come se avessero in un certo senso anche un ruolo sociale, cioè sostituito alcuni spazi che fisicamente sono stati chiusi per le ragioni che sappiamo e condividiamo. E da questo punto di vista, ed è la riflessione che abbiamo fatto questa mattina, mi ha sorpreso questa capacità di rigenerarsi di un mezzo, quello legato al calcio, che in teoria avrebbe dovuto morire in assenza dell'evento. Sì, Antonio, abbiamo provato a chiamare Orwell, ma aveva da fare, quindi non ha potuto rispondere. Però lo sentiremo nei prossimi giorni. Ma lo scenario, insomma, la radio in TV in questo momento a gioco forza ha vinto. Ma l'immagine del bar aperto è molto efficace, secondo me, complimenti. Quindi credo che il senso sia anche quello, per l'assenza assoluta di alternative fuori, di cose come prima, diciamo, che o che ricordino anche lontanamente quello che c'era prima. Ecco, provando invece a immaginarsi, a inventarsi delle cose che ricordino un certo tipo di socialità e di scambio, di cappeggio, anche di quello che si vuole da questo punto di vista, bene così, continuiamo, procediamo. Insisto che soprattutto per chi ha una certa età, quello di cui parlava Pierluigi prima è fondamentale, è un'attrattiva notevole, e non solo il fatto che Rai Sport fa rivedere Italia-Germania, ma stamattina avevo dei colleghi entusiasti per il fatto di aver visto sempre sulle stesse reti, sugli stessi canali, tipo gli europei di atletica del 78, ed era una cosa molto bella, molto forte. Poi ognuno chiaramente si costruisce un po' di palinsesto. Sì. Io ieri sera, siccome è scomparso uno degli esponenti storici dei mitici Harlem Globetrotters, io mi sono ho passato la sera guardando di sguincio un po' di filmati lontani. Prendiamo quello che c'è, e ero molto contento di vederli, mi veniva il magone, ma questo è per il momento, andiamo avanti così. Cosa resterà di tutto questo? Spero che sia solo il ricordo a questo punto, però, e che si riprenda, anzi, a ritmi più che sostenuti. Con un tema che secondo me è fondamentale. Ieri sera, a proposito di televisione, ho visto Beppe Fiorello e devo dire il suo sforzo comunque bello, interessante, intenso, vero, da formigli. C'è un tema vero, secondo me, complicatissimo per tutti quelli che comunque fanno queste cose, perché sappiamo che l'intrattenimento anche in guerra si ballava, anche in guerra c'era comunque l'intrattenimento. Di fronte a nessun dramma della vita finisce la vita, fortunatamente, no? Quindi, però l'equilibrio da mantenere, un equilibrio estremamente sottile, e quindi questo oggettivamente non è facile, perché da un lato ovviamente sono notizie terribili che arrivano, c'è il rispetto per le persone, e sono tante, sono sempre di più, che sono state fisicamente toccate, direttamente toccate da questa tragedia. Dall'altra c'è anche la voglia di tenere alto l'umore, no, delle persone, sì, di distrarle, di tenerle a casa. Quindi è un compito non semplicissimo, e quello che ha detto Beppe Fiorello ieri sera è molto molto interessante, ed è un equilibrio sottile, questo sicuramente. Allora, ragazzi, chiedo un attimo di pazienza per il fare traffico. Carlo, sì, dimmi, Carlo. Per fare un po' di archeologia sportiva, sì, così diamo una mano anche alle persone a casa: europei di atletica del 78, con gli ori di Menea nei 100 e 200, di Venanzio Ortis nei 5000 e della immensa Sara Simeoni nel salto in alto femminile. Sì, mi piacerebbe molto chiedervi, e chiedere anche agli ascoltatori, che cosa guardano in questi giorni, in questo gigantesco ripasso del passato. Però adesso devo mandare il traffico, e poi, ragazzi, bisogna andare su quell'altro tema. Cioè, se non si gioca, e Sky deve pagare l'ultima tranche ai club, i quali hanno già speso quei soldi lì. Che succede? Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, che succede adesso sul fronte di reti televisivi, Giovanni? Che idea hai? Ma guarda, io ho quest'idea, faccio il cronista. Dentro il bando c'è un articolo, un comma di un articolo che metterebbe al riparo il mondo del calcio, perché anche in caso di mancata possibilità di chiudere le partite, di farle, di trasmetterle poi da parte delle televisioni per ragioni di forza maggiore, quindi indipendenti dalla volontà della Lega, c'è scritto nero su bianco che nessuno può evitare il pagamento o ridurne la quantità. Questo è il punto di partenza da cronisti. Dopodiché siamo evidentemente in uno scenario particolare. È chiaro che è difficile immaginare che tutto possa filare liscio come in situazioni di normalità, ed è altrettanto chiaro che se domani la Federcalcio dovesse, come pare insomma, proseguire nell'intenzione di chiudere la stagione a qualsiasi conto, a quel punto sarebbe la Lega a doversi assumere l'onere eventualmente di dichiarare finita questa stagione, il che aprirebbe a scenari ancora differenti. Secondo me la realtà è un'altra, e cioè il calcio italiano e lo sport di conseguenza e le grandi pay TV si reggono l'una con l'altra, e quindi è inimmaginabile che una possa immaginare di salvarsi a scapito dell'altra. In qualche modo si dovrà trovare il modo di tenere sulla barca tutti. Antonio, che idea hai? Quello che ti dicevo prima, che non ci sono precedenti a cui rifarsi, e che dovrebbe funzionare quello che tutti stiamo cercando di fare, una sorta di mettere più elementi possibile di buon senso collettivo nei problemi nuovi e inediti che si presentano, il che significa anche che ognuno alla fine dovrebbe, come stiamo facendo in ogni contesto, rinunciare a qualcosa. Quale sia la quadra di tutto questo però è davvero difficile. Leggo che per esempio che potrebbero fare il Tour de France a porte chiuse, sì, per salvaguardare i diritti televisivi. Ecco, entriamo in una dimensione in cui diventa, cioè, il vecchio termine surreale che ci siamo spesi alla grande negli ultimi tempi, non basta più, è una specie è un pallido eufemismo, sì. È assolutamente riduttivo, quindi sono abbastanza curioso di vedere quello che succede. Voglio essere assolutamente fiducioso sul fatto che tutto, anche in quel contesto, dovrebbe funzionare, come mi sembra che in molti luoghi si stia cercando di fare, buon senso collettivo il più possibile. Più ce ne possiamo permettere, più riusciamo a mettercene, meglio è. E poi vediamo come va, perché non abbiamo niente a cui riparsi nel passato e, ripeto, per fortuna. Grazie Antonio, grazie davvero. Grazie a voi. Ciao Antonio Di Pollina. Allora, chiudiamo questa settimana di Tutti Convocati andando in Inghilterra, perché la notizia del giorno non riguarda il calcio ma il mondo, è quello della positività di Boris Johnson. C'è Stefano Boldrini che scrive per la Gazzetta dello Sport proprio da lì. Ciao Stefano. Ciao a tutti. E ciao. Un abbraccio al mio amico Pierluigi. Ciao Bold. Com'è lì il clima? Beh, il problema è che oltre alla positività del Premier Boris Johnson, quello che appena due settimane fa parlava dell'immunità di gregge, perdonatemi la battuta, si è ammalato il pastore, è di pochi minuti fa che anche il segretario per la salute e gli affari sociali, Matt Hancock, è positivo al test del coronavirus. Che cosa significa? Significa che condividendo subito i timori espressi subito all'annuncio della notizia di Boris Johnson, cioè che pezzi importanti del governo e delle strutture essenziali dello Stato britannico possano essere anche loro contagiati, perché Boris Johnson ha presieduto lunedì scorso una riunione del Comitato di Emergenza a Cobra, che riunisce insieme al Premier i ministri più importanti e i vertici delle forze armate e della polizia. E poi che il contagio, visto che il test è stato effettuato ieri da Boris Johnson, insomma, il contagio possa anche aver riguardato una parte del Parlamento, visto che c'è stata mercoledì l'ultima riunione prima della sospensione. Quindi, in sintesi, il timore è che non solo Boris Johnson, quindi il Premier di una nazione importante come la Gran Bretagna, sia positivo e sia costretto ora a lavorare da casa in regime di autoisolamento, e naturalmente facciamo a lui i migliori auguri di guarigione, ma anche i vertici di questo Stato possano trovarsi nelle prossime ore nella stessa situazione, e per una nazione importante come la Gran Bretagna, che ancora non ha raggiunto, ve lo ricordo, il picco dei contagi, è una davvero una situazione difficile. Si stava parlando di TV, Giovanni, un controspot alla vita in Inghilterra, pazzesco. Io apprendo da Stefano Boldrini e apprendo con grande sorpresa che qualche giorno fa abbiano potuto fare una cosa non in videoconferenza, che mi sembra essere il tratto da oramai una ventina di giorni per tutti i vertici di un certo livello. Beh, ma guardate che fino esattamente a ieri qua non c'erano neanche le code nei supermercati, nelle farmacie, fino esattamente a una settimana fa pub, ristoranti, discoteche, bar erano aperti. Cioè qui c'è stato un ritardo colossale provocato da un'errata valutazione, da un'errata strategia scelta appunto dai vertici delle strutture sanitarie, e da un ritardo anche da parte del paese che ha cercato in qualche modo di proteggere l'economia, che per carità è essenziale, perché sappiamo tutti che quando finirà questa pandemia poi dovremo fare i conti con un disastro economico senza precedenti. Però ripeto, loro avevano di fronte l'esempio dell'Italia, bastava seguire l'esempio dell'Italia due settimane prima per evitare di ritrovarsi in questa situazione. Loro sono in ritardo non solo di due o tre settimane sul vertice, diciamo, della pandemia, ma anche sulle misure adottate. Senti, ma è chiaro che i problemi sono grandi, diversi, maggiori, e credo che anche ora l'opinione pubblica inglese si renderà conto di diverse cose, ma sul fronte sportivo lì che idee ci sono? Ma qui, allora, la Premier, l'attività calcistica in generale sono sospese fino al 30 aprile. Il progetto è quello comunque di concludere la stagione. E vi posso dire che loro qui hanno adottato una misura, diciamo, che penso diversa rispetto all'Italia. Cioè loro hanno mandato in ferie per tre settimane i calciatori, sconsigliando loro i viaggi all'estero, ma di fatto i calciatori del Regno Unito, e in primis quelli del Premier, sono in ferie. Che cosa significa questo? Significa che se loro riusciranno a far ripartire la stagione in una data compresa tra il primo e il 15 giugno, che è quello di cui si parla, e potranno, facendo una maratona di gare con ritmi serrati, rigorosamente a porte chiuse, potrebbero riuscire a chiudere la stagione nell'ultima settimana di luglio, quindi nell'ultimo weekend di luglio, quindi diciamo il 26. Dopodiché una settimana di ferie e poi ripartirà la stagione. Cioè questa mossa della Premier League di mandare i calciatori in ferie significa che, siccome le ferie annuali sono quattro, ai calciatori resterà solo una settimana di ferie, quindi tecnicamente sarà possibile eventualmente chiudere la stagione 2019-2020 il 26 luglio e far ripartire quella successiva l'8 agosto. Questo, diciamo, è il progetto al quale loro stanno lavorando. Grande spazio alla creatività, ma ben venga, è importante che... perché quando la useremo vuol dire che sarà passata l'emergenza. Pensa che c'è un ascoltatore che mi ha mandato un SMS, perché funzionano anche quelli, non do i contatti perché ormai sono un po' desueti, però all'inizio del programma mi ha dato un SMS. Per la serie maledizioni, anche quest'anno il Liverpool non vincerà la Premier, peggio della Juve in Champions, scrive un ascoltatore. Vabbè, vi lascio con questo, saluto tutti quanti e grazie a Stefano Boldrini dall'Inghilterra. Grazie a voi, buon lavoro anche a te. Grazie a Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, che ritroveremo non domenica come siamo abituati con tutti i convocati weekend, che riprenderà anche quello, spero più presto e con grande creatività. e invece con loro ci ritroviamo lunedì, naturalmente tutti convocati alle 14. Ah, grazie anche ovviamente a Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti e in regia Roberta Frisani. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ciao Radio 24, saluti.